discorsi che vagano, parole di nessuna utilità, il dubbio di essere il distrutto dagli eccessi, allora la tua cura prende grande abilità. È un nido di capelli cresce e tra disagi e vanità, si scioglie se agiti al vento le due mani del principe che sei, orbe senza nobiltà. Solo come il ponte fra il mattino e il tramonto ballerai sul filo all'ombra delle tue ombre, sono occhi negli occhi, in un volto fermo di corallo, esposto a troppi istanti fragili, come un sogno al risveglio.